Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Bene, se c'era qualcosa di cui proprio non avevamo bisogno è questa storia che vi raccontiamo all'inizio del clostrovirus. Sì, Chiara. Il virus tristezza, è proprio il caso di dirlo. Brutta cosa. I titoli adesso e poi iniziamo. In un preoccupante silenzio sta emergendo in Sicilia una difficile crisi dell'industria degli agrumi. Il responsabile è il devastante virus tristezza. Per rispondere al grave problema dell'assuefazione agli antibiotici, le nanotecnologie potrebbero darci una valida soluzione, ma le cautele sono d'obbligo. Rome Caput Mundi. Il team italiano vince Solar Decathlon, le Olimpiadi dell'architettura sostenibile. Un gruppo internazionale di scienziati propone una metodologia di ricerca rivoluzionaria. Allora, i clostrovirus o anche detti anche detto virus tristezza. Adesso chi si starà facendo una spremuta in questo momento sappia. La farà con più con più apprensione. Perché? Perché è arrivato questo virus che si chiama tristezza, forse perché gli agrumi avvizziscono, insomma, diventano brutti e tristi. Comunque ci colleghiamo con un agronomo, presidente degli agronomi di Catania. Buonasera Corrado Vigo. Buonasera a tutti. Benvenuto. Ecco, insomma, lei ci ha lanciato un allarme. Gli agrumi di Sicilia non stanno bene, hanno questo virus della tristezza che li sta intristendo. Cos'è proprio? Sta cosa? No, adesso, a parte gli scherzi, è una cosa gravissima. È una cosa gravissima. Infatti questo virus, che da noi non era presente, è stato importato con la movimentazione del materiale vegetale da altri paesi, così come sta avvenendo anche con altre malattie o con altri insetti, per esempio ricordo per tutti il punteruolo rosso per le palme. E ne abbiamo parlato questo anche virus, qui a Mebius, infatti, sì. Esatto, allora questo virus che si chiama Citrus Tristezza Virus con una Z indica chiaramente già nel suo appellativo, nel suo nome che lo identifica, l'intristimento delle piante d'arancia. Le piante appena hanno il virus, e ora vi racconterò come arriva alle piante, appena nel virus cominciano a intristirsi, ad avvizzire, a produrre frutti di pezzatura quasi ridicola fino a morire. Ah, quindi alla fine c'è proprio la pianta, se ne va. Alla fine muore la pianta. E quindi non vengono prodotti i frutti, cioè sono inutilizzabili. Alla fine muore la pianta, non c'è metodo e soluzione di cura, poiché tutti i virus potrebbero essere soltanto curati con degli antibiotici. Ma gli antibiotici sono vietati in agricoltura. Immaginate lo spargimento indiscriminato su tutto il territorio di antibiotici. Non muore solo il virus della tristezza, ma muore uno scibile indiscriminato di insetti, di batteri, anche utili. Impraticabile praticamente. Da dove arriva questo virus? Allora, questo virus è presente un po' in tutto il mondo, ce l'hanno in America, ce l'hanno in Israele, ce l'hanno in Brasile, ce l'hanno dovunque. Solo che, allora, è arrivato da tantissimi anni, hanno provveduto con il reimpianto delle colture, ovvero la pianta è stata sostituita con altra pianta con dei portainnesti tolleranti. Significa, noi abbiamo un'agrumicoltura con un portainnesto che è l'arancia amaro classico, che fra l'altro era un jolly che si adattava a tutte le tipologie di terreni, calcari, non calcari, sciolti, di mezzo impasto, eccetera. Invece adesso dobbiamo sostituire le piante produttive con delle altre piante, sempre di agrume, con dei portainnesti diversi. Mm-hmm. Solo che per fare questa operazione ci vogliono un bel po' di soldi, che sono circa 15.000 euro l'ettaro. E oltre a questo dobbiamo mettere in conto che per una fase di avvio alla produzione passano da 5 a 7 anni, quindi 15.000 euro l'ettaro per ogni agricoltore che vuole reimpiantare, 6-7 anni di attesa senza soldi. Quindi sarebbe impraticabile praticamente. Gravissimo. Ma senta, intanto attacca soltanto le arance o soltanto alcune piante? Come attacca questo virus? Allora, attacca tutti gli agrumi ad eccezione del limone, poiché all'interno del limone il virus è presente, può essere presente, ma non manifesta e non porta la morte alla pianta. Ma lei però poco fa diceva che negli altri paesi sono stati sostituiti questi agrumi, esatto, colpiti dal virus con altri, quindi attacca certe specie di agrumi e non altre. Attacca gli agrumi innestati sul portinnesto arancianaro. Ce lo spiega un po' bene questo? Sì, attacca anche il limone, ma nel limone non si manifesta. Il punto di innesto fra l'arancianaro e il nesso, quindi il tarocco, il moro, l'avelina, tutte le varietà, i mandarini, clementine, eccetera, è in quel punto che il virus si ferma, si localizza e smembra i vasi xilematici. Quindi quando lei dice bisogna, per diciamo abbattere il virus, bisognerebbe estirpare la pianta. Lei intende anche l'innesto? Tutto l'impianto. Se in un ettaro abbiamo 400 piante, come siamo nella media della pianta. Però scusi, se lo sostituiamo 400 piante. Però se lo sostituiamo con arancia amara, succede la stessa cosa o no? Dobbiamo reintegrare con dei posti innessi tolleranti. Però noi eravamo un'isola felice e non avevamo questa malattia e l'abbiamo ahimè portata. Cioè lei vuole dire che ormai tutti gli ettari, diciamo, che c'erano in Sicilia avevano questo porta innesto di arancia amara. Il problema è che adesso questo virus colpisce proprio l'innesto che avevate in Sicilia. Perché qua il problema, noi abbiamo 112.000 circa ettari di agrumeti, di cui 75.000 circa agrume di arance, il resto sono limoni. Come si trasmette? Il virus dalla pianta, da una pianta all'altra pianta, viene trasmesso attraverso gli afidi. Noi sappiamo perfettamente che negli uomini la malaria viene trasmessa dalla puntura di una zanzara, dall'uomo che ha la malaria, il virus entra all'interno della zanzara, quando punge l'altro uomo viene trasmesso. Inietta e trasmette la malaria. Nel caso della zanzara il sangue, nel caso degli afidi la linfa, nel momento della iniezione con il loro apparato boccale all'interno della pianta ospite, se un afide aveva già prima prelevato della linfa con all'interno il virus e la tristezza, lo trasmette nella nuova pianta. E Vigo, il problema mi sembra che sia abbastanza grave, esteso. Quanti sono gli agrumeti, quanti sono gli ettari colpiti in Sicilia? Allora, su 74.000 ettari di arancicoltura, grosso modo già ne sono stati colpiti 18-20.000. Ah, però. E invece come soluzioni ci diceva che non ce ne sono granché. Bisogna soltanto estirpare le piante malate, tutti gli appezzamenti, e reimpiantarle. Ma è partito questo programma? Questo programma è in atto in questo momento in chiusura all'Unione Europea e nel nuovo PSR sarà possibile prevedere delle soluzioni contributive per tutti gli agrumicoltori. La regione Sicilia si sta muovendo per in qualche modo aiutare, finanziare. Si sta muovendo tantissimo, anche il servizio fitosanitario è molto presente. Ci vuole una massa di denaro immensa, ma qua c'è un'economia della Sicilia orientale a rischio, poiché tutto l'indotto interessa 420.000 persone, altro che la FIA. E certo, avete fatto una stima di quale può essere il danno economico? Sì, abbiamo fatto anche delle proposte alla regione siciliana indicando, nel caso in cui non si dovesse intervenire, cosa succede come PIL a un settore che da agrumicoltura diventa cerealicoltura, per esempio. Abbiamo visto che l'occupazione crolla del 97%. Un disastro. Coraggio Vigo, speriamo che davvero si riesca a fare un po' di più, cioè che la regione si impegni in qualche modo a sostenervi, perché non possiamo fare a meno delle vostre arance. Speriamo che riusciamo a superare questa emergenza, che mai mi sarei aspettato nella mia vita di dover fronteggiare in questa maniera veloce, rapida, ma preoccupante. Allora buon lavoro Vigo. Grazie, buonasera a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi proponiamo periodicamente qui a Mebius uno dei tanti passaggi, dei tanti aspetti, caselle di questo infinito mondo che è il nanomondo. Lo facciamo perché Mebius per l'Italia, il Guardian per l'Inghilterra e il Mondo per la Spagna sono all'interno come media di un progetto europeo che vede però anche altre realtà, altre strutture che si interessano per esempio di didattica, all'interno di un progetto europeo che si chiama Nanopinion e che ha come obiettivo quello di produrre comunicazione sulle nanotecnologie, vedere a volte, non sempre, non per ogni comunicazione che facciamo, vedere quali sono le impressioni del pubblico, e lo si fa vedendo chiari, scuri, mezze tinte, tutti i problemi aperti e quelli che invece sembrano essere più risolti, per esempio sotto il punto di vista della sicurezza, dell'efficienza reale di questo tipo di tecnologie, che certo stanno promettendo grandi cose, ma dobbiamo comunque controllare che siano affidabili. Questa sera facciamo un altro passaggio, facciamo un altro metro dentro questo però infinito percorso, e ho ospite qui a Moebius Ranieri Bizzarri. Buonasera Bizzarri. Buonasera, buonasera a lei. Stiamo per parlare di antibiotici, alternative agli antibiotici, anche di batteri e di strategie nano. Lei dove lavora? Io lavoro al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nanoscienze, che è in Pisa ed è una struttura peraltro multistituto, c'è dentro anche la Scuola Normale Superiore e l'Istituto Italiano di Tecnologia. È uno dei nostri centri principali per quanto riguarda le nanotecnologie. Allora, Bizzarri, è uscito di recente, ne ha parlato anche l'Economist, una ricerca che si è interessata di un problema grosso che abbiamo, che è quello della esposizione al fattore antibiotico, che col passare del tempo sta diventando pericolosamente sempre meno un medicinale, perché insomma non reagiamo più a questo farmaco, e una possibile soluzione di tipo nanotecnologico. Però inizialmente chiedo a lei di spiegare molto meglio di quello che potrei fare io qual è il contenuto di questa ricerca che è apparsa appunto su importanti riviste. Ma dunque, la ricerca che è apparsa proprio nelle ultimissime settimane è estremamente interessante, perché utilizza un approccio estremamente innovativo, andando a generare delle nanoparticelle, quindi delle strutture con una dimensione molto piccola, si sta parlando di 25 nanometri, il nanometro è la miliardesima parte del metro, quindi si sta parlando di qualcosa che diciamo per la nostra scala sensoriale è straordinariamente piccolo, ma sono particelle di acqua, sferette di acqua che vengono generate attraverso un processo in cui si crea uno spray un'emulsione, un aerosol per meglio dire, in cui una scarica elettrica ha il ruolo principale. Quello che è interessante da dire è che queste nanosfere di acqua sono estremamente stabili, temporalmente stabili, quindi possono stare alcune ore in dispersione e naturalmente non, diciamo così, fluttano nell'aria, possono essere disperse all'interno di un ambiente ed hanno al loro interno delle specie, si chiamano specie di ossigeno reattivo, una cattiva traduzione dall'inglese, molto più pregnante. Queste specie sono molto attive nei confronti di batteri, quindi l'idea è quella di utilizzare questi spray, questi aerosol in ambienti presumibilmente tipo ospedaliero, in modo tale che queste nanosfere, del tutto innocue, non sono nanosfere di tipo tecnologico, organico, derivanti da derivati del petrolio, possano svolgere la loro azione antibatterica in piena sicurezza. In ambienti dove il pericolo di prendere infezioni è estremamente elevato e quindi bisognerebbe ricorrere continuamente, diciamo, all'uso di antibiotici, in questo caso avrebbero una funzione preventiva perché diventano, ma ci spieghi, proprio uno schermo di tipo meccanico quasi? Non dunque, completamente. Diciamo che no, in un ambiente tipo una sala operatoria, un ambiente ospedaliero, è chiaro che la setticità deve essere garantita attraverso, in genere garantita attraverso un riciclo di aria, passaggio attraverso filtri, utilizzo di radiazione ultravioletta. Un sistema di questo genere avrebbe il pregio di, oltre a una presumibile semplicità e una riduzione dei costi, di avere anche una totale biocompatibilità nei confronti di, diciamo così, le eventuali esposizioni anche inavvertite di operatori. È chiaro che se uno utilizza una radiazione ultravioletta, quell'ambiente non è accessibile, non si può accedere durante quel periodo, e quindi c'è una parte temporalmente dispendiosa in cui non è possibile sfruttare l'ambiente per l'attività ospedaliera reale. Lei giustamente ha usato l'immagine dello spray, del pulviscolo d'acqua, adesso li vediamo anche nelle piazze per esempio utilizzati, no, per abbattere la calura, ma naturalmente siamo molto lontani in termini di dimensioni da queste nuvolette, non vedremo assolutamente niente, ma l'ambiente sarebbe abbondantemente saturato da queste nanogocce con quella funzione. Ecco, ma dove possono esserci dei problemi? Perché so che sono stati anche delineati dei possibili scenari problematici. Ma dunque, dal punto di vista, diciamo così, a prima vista è chiaro che parlando di pura acqua o comunque acqua che contiene delle specie che derivano dall'acqua stessa, che hanno una capacità di interagire negativamente nei confronti dei batteri perché interagiscono con un sistema vivente che è molto diverso dal nostro. La parte di biocompatibilità appare totale. È chiaro, diciamo, sottolineerei un punto. Quando si parla di nanotecnologie ci si rifà a un'idea molto, molto importante, un paradigma molto importante è venuto su negli ultimi anni, cioè che quando si va a strutturare la materia su base nanometrica, questa materia viene ad avere delle proprietà diverse, spesso non facilmente predicibili anche nell'interazione con diciamo così, gli esseri viventi. Per questo c'è una giusta attenzione all'aspetto tossicologico delle nanostrutture, delle nanoparticelle, di cui di base non si sa moltissimo, ma lentamente evidenze ci vengono portate a livello scientifico. E pertanto anche in questo caso sarebbe necessario poi valutare la reale tra virgolette la totale sicurezza di un sistema che di base prevede come componente solo acqua resa sotto forma spray. E tuttavia è anche la loro rilevanza, perché è del tutto ovvio che invece particelle anche di acqua, la nebbiolina che troviamo quando sulla pianura padana, quando giriamo la sera d'inverno, quella non ha nessun effetto batteriostatico, e dunque diciamo dobbiamo imparare a poter valutare con un criterio razionale e molto quantitativo la possibilità di sfruttare la strutturazione nanometrica della materia per poter svolgere sistemi di questo tipo. Bisogna diciamo così affidarci a delle prove reali, partendo dal presupposto che però è possibile ottenere degli effetti non facilmente ottenibili. Certo, sistema di questo genere può essere meglio di antibiotici che sviluppano una loro tossicità col passare del tempo. In generale, questo problema, no, del riuscire a combattere i batteri che si sviluppano in ambienti, soprattutto quelli di tipo ospedaliero, è davvero un problema che sembra impossibile da maneggiare, da risolvere, difficilissimo. Dunque, i numeri sono molto molto significativi, perché se parliamo di sepsi, ovvero dell'infezione acuta che diciamo in genere avviene su pazienti immunocompromessi, anziani, in un ambito ospedaliero per interventi chirurgici estremamente invasivi, si sta parlando di qualcosa come nella intera comunità europea, Unione Europea, di una novantina di casi ogni 100.000 abitanti, quando l'incidenza del tumore alla mammella parla di 58 casi ogni 100.000 abitanti. Ora, diciamo, ho trovato su internet, cercando qualche dato, anche numeri molto, molto shock, tipo c'è un morto ogni secondo e 75, diciamo, al netto poi dell'aspetto drammatizzato e drammatizzante, è un fenomeno molto delicato, perché è chiaro che diciamo interventi chirurgici, un intervento di tipo ortopedico, un intervento a livello della parte cardiaca possono in alcuni casi portare all'insorgenza di pericolose infezioni, e questo avere delle complicazioni dal punto di vista sanitario notevoli. Strumenti particolari non è che ne abbiamo più di quelli che conosciamo da tempo. Dunque, allora io premetto che posso dare solo una visione un po' parziale, perché non è che abbia una conoscenza completa. Diciamo che il classico tipo di approccio è un approccio di tipo una terapia antibiotica, con quello che comporta una terapia antibiotica e col fatto anche, insomma, io sono a conoscenza per esempio che certi tipi di infezioni che poi avvengono laddove si installano protesi o sistemi di questo tipo possono diventare estremamente pericolosi anche diciamo così, in seguito una terapia, perché o la terapia eradica completamente l'infezione oppure si può arrivare alla colonizzazione della protesi da parte del biofilm batterico e quindi la necessità di fare un nuovo intervento estremamente invasivo. Ora, diciamo, un calciatore nel pieno dell'attività riesce facilmente a superare, insomma, però se si pensa a una persona un po' avanti con gli anni che si trova in una condizione di questo tipo, diciamo, è chiaro che può esserci una complicazione micidiale. Le complicazioni sono elevate. Noi, allora, nel nostro centro abbiamo una linea di ricerca, diciamo, di ricerca di base, ma anche in parte traslazionale, che si rivolge allo sviluppo di sistemi antibiotici alternativi, nella fattispecie peptidi, piccole proteine, che intervengono a livello del batterio distruggendone prevalentemente la membrana, ovvero la parte esterna dell'involucro batterico, e quindi, diciamo, hanno una loro attività intrinseca che non viene poi soggetta a resistenza, perché comunque hanno questa azione meccanica molto molto precisa. Ci sono tre ricercatori nel nostro centro che, diciamo, utilizzano un approccio molto molto interessante. Da una parte utilizzano strumenti computazionali, cioè hanno, attraverso dei database, loro identificano delle sequenze di queste piccole proteine che hanno o un'attività molto spiccata o zero attività nei confronti di batteri. Dopodiché incrociano queste informazioni e cercano di ottimizzare, di migliorare le proprietà di quelli che hanno già attività antimicrobica, riducendo la porzione strutturale che invece non ha nessuna attività e che semplicemente era storicamente lì, presente lì. Insomma, sono già state fatte delle pubblicazioni scientifiche che mostrano come un approccio di questo genere effettivamente porti poi allo sviluppo di nuovi sistemi che hanno una migliore capacità di incidere sui sistemi batterici. Daniele Bizzarri, la ringrazio e buon lavoro, buona ricerca. Grazie mille, grazie a voi, buonasera. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Nei titoli noi abbiamo detto Rom Caput Mundi, probabilmente molti ascoltatori non hanno capito che cosa c'era passato per la testa, ma adesso è corretto. Solo che si scrive R-H-O-M, quindi R per Roma, home è la casa. È la casa. Infatti il team dell'Università di Roma 3, ecco anche qua il gioco di parole, ha vinto sul rush finale, insomma è stata anche un po' una sorpresa. Con un po' di suspense. Sì. Il Solar Decathlon, che sono le Olimpiadi, quindi mondiali, della sostenibilità, in cui ogni team è chiamato a costruire, ogni team rappresentante ogni paese è chiamato a costruire in soli 10 giorni, pensa, una casa a bassissimo impatto ambientale, alimentata a energia solare. E attenzione, il team italiano ha vinto. E questo è veramente un risultato. Si era già piazzato bene in una gara analoga qualche tempo fa, ma adesso è arrivata la vittoria. Mi sembra che, diciamo, il rush finale negli ultimi giorni ci sia stato un capovolgimento della classifica, perché veniva valutata tutta la parte di innovazione della casa, e in effetti questa casa aveva due brevetti in particolare, di cui adesso parleremo, veramente innovativi. Prima facciamo i complimenti a Chiara Tonelli. Buonasera Tonelli. Buonasera, grazie. Allora, lei è l'architetto che dirige questo team, fatto da quante persone? So che siete un po', eh? Siamo tantissimi, siamo 15 docenti e 40 studenti dell'Università di Roma 3. Abbiamo lavorato con un gruppo interdisciplinare, multidisciplinare. Poi so che avete anche parecchie aziende, ma ne parliamo dopo. Allora, ci dica che cos'è questa casa che ha vinto la Solar Decathlon. Beh, come dicevate voi bene in apertura, Roma, proprio a home for Rome, quindi è una casa per Roma, ma una casa in realtà è quello che noi abbiamo portato alla gara, è un appartamento di un edificio pluripiano che intende risolvere i problemi abitativi che si trovano a Roma. A Roma abbiamo il problema di un forte abusivismo edilizio, quindi noi pensiamo di sostituire le baraccopoli che purtroppo insistono sui nostri monumenti storici e di realizzare degli edifici che costino poco alle istituzioni pubbliche che se ne fanno carico e agli investitori privati, e possano dare alloggi confortevoli e a bassi consumi a degli abitanti che hanno delle condizioni, come dire, sociali un po' meno abbienti. Sono molto efficienti dal punto di vista energetico, no? sono molto efficienti dal punto di vista energetico perché in realtà sono in grado di consumare poco, per cui noi puntiamo proprio a un involucro molto isolante affinché l'edificio il comfort, garantisca il comfort interno senza avere alti consumi. E poi uniamo al, per garantire che comunque il comfort ci sia in tutte le condizioni meteorologiche, degli impianti molto sofisticati a altissima efficienza energetica, quindi pompa di calore per esempio ad alta efficienza energetica e tutti quei sistemi cui accennavate in apertura, che sono i sistemi per esempio che riescono a far produrre l'elettricità come delle tende che ombreggiano le nostre logge al sud, ma che in realtà producono energia, e i parapetti che producono acqua calda. E ora ci arriviamo. E ora ci arriviamo. Infatti adesso dedicheremo un po' di spazio a queste cose con delle interviste brevi di alcuni del suo team. Senta, noi vediamo che ci sono parecchie aziende che hanno partecipato, hanno fatto, sono state partner di questo progetto, che però è fortemente innovativo, quindi immagino che non abbiano portato dei loro prodotti consolidati. Che tipo di relazione avete avuto? Beh, diciamo che noi la grande innovazione nel nostro lavoro non è tanto nella soluzione in sé quanto nel metterla a sistema, quindi è l'integrazione tra i sistemi esistenti e il modo di utilizzarli, per cui quello che per esempio abbiamo fatto è, pur prendendo una pompa di calore per esempio di Daikin, che è stata una pompa di calore di produzione, quindi commerciale, l'abbiamo però unita a un sistema termodinamico anch'esso esistente ma che non aveva mai collaborato con questa, per cui il sistema termodinamico produce l'acqua calda e attraverso la pompa di calore viene trasferita alle modalità di fare comfort all'interno dell'edificio. Oppure il fotovoltaico che viene utilizzato sulle barche, che quindi è flessibile, leggero, si può attaccare e staccare, l'abbiamo inserito nelle tende che ombreggiano la loggia e di conseguenza l'abbiamo usato in un modo innovativo. Quindi l'innovazione sta più nel modo in cui utilizziamo i nostri componenti che non nel componente in sé. E a questo proposito sentiamo Francesca Marino del suo team, che è responsabile appunto di questo pannello fotovoltaico, che ci racconta quali sono le caratteristiche innovative del pannello flessibile. Abbiamo fatto un impianto che sia spostabile manualmente, quindi non consumi energia. Questo è agevolato dal fatto che c'è una struttura molto leggera in alluminio e un pannello molto leggero, perché questo è un pannello flessibile che viene utilizzato per le imbarcazioni. Pesa infatti 800 grammi l'uno, quindi nel complesso i 99 pannelli sono veramente molto leggeri, ci producono molta energia in quanto sono tra i più efficienti che esistono sulla linea dei fotovoltaici. Non solo produce energia ma fa anche ombra. In questa casa niente ha una sola funzione. L'impianto fotovoltaico ha sia il compito di produrre energia e sia il compito di schermare la loggia, di interagire col solare, e poi ha una terza configurazione che è quella alzata fino ad arrivare alla stessa inclinazione della falda, cioè 15 gradi, e questo permette di far entrare la luce all'interno della casa ma non far entrare i raggi diretti, e in più la configurazione aperta produce ovviamente maggiore energia. C'è anche la possibilità di rilevare dei dati tramite un'interfaccia che abbiamo, un'interfaccia che ti permette di monitorare tutto e non ti fa automaticamente le azioni ma ti dà una sorta di suggerimenti su la situazione com'è della tua casa e quello che potresti fare. Ecco, non abbiamo detto che il Solar Decathlon si è tenuto a Parigi, alle porte di Parigi, a Versailles. Queste interviste sono state realizzate lì dal nostro collaboratore Daniele Bettini, che tra poco si collegherà con noi e ci racconterà anche quali erano le altre case in gara. Abbiamo detto che i brevetti erano due, i brevetti innovativi che hanno reso insomma questa casa davvero speciale, e sentiamo Marco Sinopoli invece che ci racconta di questo parapetto, proprio il parapetto di un balcone, di un patio termodinamico che produce energia. Questo pannello è un pannello solare termodinamico, quindi c'è una grande differenza tra un pannello solare termodinamico e un pannello solare classico, perché il pannello solare classico lavora sostanzialmente attraverso la luce solare diretta, mentre il pannello termodinamico lavora attraverso una differenza di temperatura. Questo fa sì che il pannello può lavorare sostanzialmente giorno e notte con qualsiasi situazione atmosferica e meteorologica. Basta che ci sia una differenza di temperatura tra il gas interno al pannello, che ha temperatura meno 30 gradi, e appunto la temperatura esterna. Questo pannello lavora appunto per differenza di temperatura ed è collegato questo fluido termovettore gassoso ad una sorta di pompa di calore che si chiama Solar Box, e che trasmette il calore dal fluido a dell'acqua calda, che viene appunto poi stoccata in un tank che è comune. Quindi abbiamo un'integrazione massima tra tutti i sistemi attivi della casa. E inoltre ha un'efficienza molto molto alta, ha un COP di 6,5, quindi sostanzialmente produce 6,5 volte l'energia che gli viene immessa. Tutta la casa è curata da un cruscotto centrale che gestisce i sensori ovviamente installati nella casa, e sentiamo infine il responsabile del cruscotto, Vincenzo Panasiti. Noi abbiamo sviluppato tutto un sistema di interfacce per educare l'utente. In questo modo, attraverso delle piattaforme digitali e attraverso una sensoristica diffusa in tutta la casa, l'utente è in grado di vedere tutto quello che succede all'interno della sua casa e di conseguenza vedere anche, diciamo, gli effetti di ogni sua scelta. Ci siamo molto anche basati sul concetto dell'automobile. L'automobile ha un cruscotto dove sono indicate, diciamo, i valori che interessano il guidatore comune. Stessa cosa abbiamo fatto per la nostra casa, dove attraverso una piattaforma online sviluppata insieme ad Almaviva abbiamo realizzato una serie di tachimetri che permettono di avere subito, a primo impatto e molto facilmente anche all'utente comune, una panoramica del comportamento sia energetico che di comfort della propria casa. Ecco, Chiara Tonelli, i suoi tre collaboratori mi pare che abbiano descritto dei passaggi fondamentali di questo vostro progetto. Ci terrei anche a dire che sono studenti e quindi, insomma, diciamo che proprio la loro esperienza è importante, perché non parliamo di professionisti, ma come avete sentito sembravano dei professionisti perché hanno fatto un'esperienza talmente reale, talmente calata nelle cose, che sono in grado di raccontarla con questa dovizia di dettaglio. Un bel gruppo che ha preso un bel premio. Diciamo a voi che ci ascoltate che se andate al nostro sito www.moebiusonline.eu potete accedere poi a dei video abbastanza numerosi che descrivono bene, ve la fanno vedere questa casa. Allora, Chiara Tonelli, grazie ancora, complimenti. Grazie a voi. Andate a festeggiare, grazie. E invece passiamo a Daniele Bettini. Buonasera Bettini. Buonasera. Ciao. Eccoci qua. Allora, ci devi raccontare un po' in che contesto questa casa ha vinto. C'erano altre? No? Ce n'erano una ventina, giusto Daniele? Sì, diciamo che i giardini di Versailles sono stati animati da 20 squadre provenienti da università di tutto il mondo, ognuna delle quali ha portato delle esperienze molto particolari e molto legate al loro territorio, perché appunto per rispondere alle domande proposte dal panel di Parigi hanno dovuto specializzarsi dando delle risposte molto precise. Sì. Per esempio vediamo che la seconda squadra, quale è classificata, la francese Filet, ha ristrutturato un palazzo del 1895 che era un mulino. Il palazzo si chiama Cap 44 ed è stato trasformato in un contesto sociale molto particolare con degli orti urbani. Il team olandese invece ha puntato sulla ristrutturazione delle tipiche villette a schiera monofamiliari che rappresentano una parte significativa del patrimonio immobiliare del paese, mentre ci sono appunto esperienze più particolari. I thailandesi hanno progettato una casa in grado di resistere alle inondazioni, realizzando appunto un complesso particolare che permetteva di trasportare tutte le attività della casa al primo piano o sul tetto in modo da poter in caso di inondazione. Certo. I messicani invece hanno puntato sulla riscoperta di materiali tradizionali come la canapa. I cileni di Casa Fenix, proprio partendo dal nome della Fenice che risorge, ha costruito una casa in legno con pannelli solari capace di resistere o di rispondere prontamente a delle catastrofe naturali quali terremoti o cicloni. Ma scusa, quindi, Daniele, quindi non c'era un mandato preciso, ognuno aveva una certa libertà, però poi si sono stati misurati tanti ingredienti e si è trovato quello che aveva fatto meglio la sua. Il denominatore comune forse era l'impatto ambientale zero, e insomma l'alimentazione a energia solare. Sì, diciamo era quello di costruire in tempi rapidi una casa sostenibile, quindi a impatto ambientale ridotto, non soltanto nella gestione quotidiana ma anche nella sua costruzione. Quindi è stata analizzata anche tutta la filiera. I concorrenti dovevano portare il materiale a Parigi consumando la minor quantità quindi tutto il ciclo. Beh, quindi è un premio complesso, eh? Un premio molto complesso, e che speriamo che, appunto, essendo la nazione vincitrice, di poter ospitare anche. Ah, perché girano voci che la prossima edizione possa essere in Italia? Ma sì, dato il successo di sulla scia dell'entusiasmo ci sono degli elementi che lasciano intravedere la possibilità di portarla di qui, ospitare nel 2016. Nel 2016. Bene, bene. Grazie Daniele. Grazie Daniele. Buona Grazie. Serata. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Matteo Cantarelli, buonasera. Buonasera Federico. Tu ti trovi in questo momento dove? A Oxford, in Inghilterra. Allora, tu sei in Inghilterra, il vostro gruppo, adesso mano a mano vi descriviamo, che sta facendo una proposta di ricerca, come ho detto prima, particolarmente interessante proprio dal punto di vista del metodo, del fare ricerca. Il vostro gruppo è sparso per il mondo. Da quanti paesi provenite e quanti siete? Siamo 45 collaboratori da una dozzina di paesi. Partiamo da Russia, Ungheria, Stati Uniti, Italia, Canada, Irlanda. Sono tanti. Veramente dappertutto. Che naturalmente oggi riescono a lavorare insieme perché con la rete, con Skype, con le conference, insomma, è possibile davvero avere un contatto molto forte. Il vostro progetto si chiama Open Worm, se lo dovessimo tradurre, cioè lo traduciamo, è vermicello aperto, che non è un granché, però dopo lo spieghiamo. Al centro di questo progetto c'è questo vermicello che si chiama C. elegans, che voi biologi sfruttate in un modo fantastico e perverso dal punto di vista del C. elegans da tanto tempo, no? È un soggetto particolarmente adatto agli esperimenti. Sì, è uno degli organismi più studiati, che è stato comunque sia al centro dell'attenzione della ricerca per decenni, proprio per la sua comunque sia struttura semplice, per la possibilità comunque sia di manifestare tutta una serie di comportamenti abbastanza evoluti. E questo lo vediamo più avanti, è un po' come la famosa mosca della frutta che viene utilizzata sempre da voi in medicina, in tantissimi esperimenti, la drosofila. Va bene, però adesso invece concentriamoci sulla caratteristica di questo progetto. Quindi lasciamo un attimo da parte il vermicello di Open Worm e stiamo su Open. Questo Open è un scenario di modalità di ricerca decisamente interessanti. Che cosa vuol dire? Cos'è che avete scelto di fare? Beh, diciamo che rispetto alla scienza più tradizionale che accade all'interno di laboratori che non sono blindati, ma per tutta una serie di motivi legati alle pubblicazioni, legati a dei fattori politici comunque sia, pubblicano i risultati comunque sia solo alla fine di un lungo percorso e diciamo dà dei benefici in dei casi, ma comunque sia diminuisce le possibilità di collaborare da parte di diversi gruppi. Quello che noi con Open Worm facciamo, da un punto di vista comunque sia culturalmente parecchio diverso, è il fatto che tutta la ricerca che accade, che sta accadendo da parte di tutti questi collaboratori sparsi in tutto il mondo è pubblica ed è accessibile a tutti praticamente, scienziati, ingegneri e cittadini, veramente, veramente chiunque, rappresenta in questo campo una rivoluzione culturale. Una rivoluzione culturale, cioè praticamente tutte le fasi della ricerca, i vostri contributi, gli esperimenti che fate e che possono contenere degli errori e quindi correggete, sono assolutamente aperti al pubblico, quindi anche a me, che potrebbe essere, io potrei essere come informatore sorgente di qualche domanda da farvi mentre si sviluppa la ricerca, però soprattutto sono aperti a tutti coloro che fanno il tuo mestiere, il vostro mestiere. Questo certamente è un cambio culturale grosso, perché insomma, come in tante attività umane, nella scienza pure, insomma, la competizione, la segretezza dei dati, perché poi uno pensa, no, di riuscire a... c'è il grande sogno del Nobel, per esempio. Voi questo, insomma, lo sovvertite? Sì, diciamo, vogliamo avere un approccio completamente diverso, anche perché i vantaggi sono tanti. Nel momento in cui apri quelli che sono i processi, apri quelli che sono comunque sia i dati, i modelli che sviluppi, dai la possibilità a chiunque di contribuire, per cui si abbatte per un certo senso anche quel velo di diffidenza, se vogliamo, e soprattutto esponi l'interità della cosa comunque sia ad un vasto pubblico che può per l'appunto fare domande, trovare errori. Non è raro che anche nella scienza, con tutto il processo che accade, si sentono sempre di più ad esempio di paper che sono ritratti, perché nonostante siano trascorsi degli anni, nonostante siano pubblicati, poi comunque sia sono stati trovati degli errori che sono stati fatti nel processo. Sì, certo. Si vuole anche combattere questo, ecco. Certo. E quello che tu dici è che viene fuori anche una ricerca migliore proprio, perché c'è un contributo più vasto. Sì, e comunque sia si dà la possibilità, il discorso è che un progetto come quello della simulazione del C. elegans, in cui tanti ricercatori hanno contribuito, in cui ci sono tante aree di expertise che sono richieste, comunque sia un progetto del genere che è in grado di catalizzare tutti i diversi contributi da parte di persone diverse, comunque sia anche essenziale per riuscire a mettere in campo tutte le competenze che sono richieste. Certo, certo. Senti, velocemente, ma è un'informazione molto importante. Avete fatto una chiamata di finanziamento pubblico, quello che oggi si definisce crowdfunding, e avete ottenuto l'obiettivo. Puntavate a raccogliere quanto? $120,000. E ce l'avete fatta in un mese? Sì, ce l'abbiamo fatta in un mese. È stato un esperimento quanto il progetto stesso, che comunque sia va di pari passo con quella che è il cambio culturale, perché di norma comunque sia i finanziamenti arrivano dai soldi delle tasse dei cittadini tramite le agenzie che appunto danno i grant di ricerca. In questo caso sono stati i cittadini in prima persona a decidere che il progetto comunque sia fosse interessante, che il progetto dovesse essere comunque sia perseguito. E probabilmente quell'open motivato, descritto dal vostro sito, ricordiamolo, è openworm.org. Probabilmente quell'open lì è piaciuto, insomma, e la gente vi ha dato i denari. Senti, Matteo, ti do 3 minuti e mezzo per 4, va? Per adesso dirci che cosa combinate con il C. elegans, che voi lo prendete e lo trasportate in digitale, non perché lo mettete dentro un computer, ma lo simulate. Sì, l'obiettivo del progetto OpenWorm, che è partito nel 2011, è appunto quello di creare una, come in inglese, full scale simulation. Si parla di una simulazione che coinvolga tutti diciamo, gli aspetti dei fenomeni che si manifestano all'interno del C. elegans, per poter riprodurre quelli che sono i comportamenti del verme in silico, quindi attraverso una simulazione che viene eseguita in un computer. Hai usato questo termine che stanno usando anche in altri campi, in silico, cioè con il silicio dei circuiti, è per questo che lo chiamate così, no? Certo. Esattamente. Sì. E l'obiettivo del progetto è appunto quello di riuscire ad arrivare ad un modello, ad una serie di modelli che, nell'ambito, ovviamente nei confini dei parametri, di quelle che sono le ipotesi e gli assunti fatti nel momento in cui stai creando il modello, possano arrivare a spiegare quelli che sono i comportamenti di questo verme, che è fatto di 1000 cellule rotti e 302 neuroni. Quindi l'importanza di avere un modello molto affidabile, digitale, è che poi con questo voi ci lavorate, potete fare tante combinazioni e poi si può ritornare nel reale con una serie di dati da verificare e di direzioni di ricerca molto più precise. Esattamente, quello fa parte questo. Della fase di validazione comunque sia del modello, dove tu non fai altro che eseguire, una volta che sei arrivato al compimento dell'opera, degli esperimenti in silico, quindi solleciti quello che è il tuo modello e ottieni dei risultati e poi vai a comparare questi risultati con le stesse esperimenti che puoi fare sul appunto in vivo, quindi sul verme vero. E questo, diciamo, questo è il procedimento che in qualunque modello computazionale, anche in neuroscienza, viene messo in atto per appunto verificare la bontà e la qualità di un modello, che ovviamente in questo caso è di una complessità estrema. Perché il giro attraverso il digitale, per quanto magari inizialmente può sembrare più lungo, però poi insomma maneggiare quel vermicello nel formato digitale è più semplice che lavorare sul reale, cioè vi permette di fare per esempio in breve tempo molte più cose. Allora, sì, diciamo che ci sono dei costi fissi e delle tempistiche iniziali che sono sicuramente, che saranno lunghissime. Il discorso è che vai a recuperarli tutti nel momento in cui, comunque sia, il tuo modello, diciamo, è accurato nell'ambito di 3, 4, 5 esperimenti che riproducono dei comportamenti che sono quelli che a te interessano, e a quel punto lì il modello che tu hai creato puoi utilizzarlo per fare delle simulazioni e vedere ad esempio cosa accade facendo delle sollecitazioni che per fare negli esperimenti veri ti prenderebbero mesi, in quel caso riesci a farle in una notte di simulazioni, per cui a quello si vuole arrivare nel lungo termine, nel lungo sicuramente. Termine. Certo. Va bene Matteo, grazie, buon lavoro, buona ricerca, ci darai informazioni sul vermicello aperto e io dico ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di andare al sito nostro www.moebiusonline.eu, lì troverete anche il link a una intervista video con Matteo, anche più lunga di queste, e poi altri collegamenti a cose che riguardano questo tipo di ricerca. Ciao Matteo, buon lavoro. Grazie Federico, ciao. Velocemente in conclusione vi ricordo però che la prossima puntata su queste tematiche della ricerca in neuroscienze ne parleremo ampiamente, perché c'è in ballo anche una certa polemica rispetto a un progetto Human Brain europeo, ci sono pro, contro, insomma ne parliamo la prossima volta. Buona settimana a tutti e a tutte.